«Vedrete Orian fra un istante», mi disse il duca quando entrai. «Siccome Swan deve venire fra poco a portarle le bozze della sua monografia sulle monete dell'Ordine di Malta e, quel che è peggio, un'immensa fotografia dove ha fatto riprodurre entrambe le facce di ciascuna moneta, Orian ha preferito prepararsi prima per poter rimanere con lui finché non usciremo. Siamo già così pieni di roba da non sapere più dove metterla. Mi chiedo dove ficcheremo quella fotografia. Ma ha una moglie troppo gentile che ama troppo far piacere alla gente. Le è sembrato carino chiedere a Swan di poter vedere uno accanto all'altro tutti i grandi maestri dell'ordine, di cui lui ha trovato le medaglie a Rodi. Già vi ho detto Malta invece Rodi, ma è lo stesso ordine, l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme. In fondo, Orian si interessa alla cosa solo perché se ne occupa Swan. La nostra famiglia è molto coinvolta in tutta questa storia. Ancora oggi, pensate, mio fratello, che voi conoscete, è uno dei più alti dignitari dell'ordine di Malta. Ma se ne avessi parlato a Orian, non mi sarebbe neanche stata a sentire. In compenso, non appena le ricerche di Swan sui Templari, è incredibile come la gente di una religione s'accanisca a studiare quella degli altri. Lo hanno portato a occuparsi della storia dei cavalieri di Rodi, eredi dei Templari. Subito a Orian è venuta voglia di vedere le facce dei cavalieri. Erano delle nullità, paragone dei Lusignano, re di Cipro, dai quali noi discendiamo in linea diretta. Ma dei Lusignano, per il momento, Swan non si è ancora occupato, e così Orian non vuol sapere niente di loro. Non potei spiegare subito al duca perché ero lì. Alcune parenti o amiche, come Madame de Silistri e la duchessa di Montrose, vennero per far visita alla duchessa, che riceveva generalmente prima di pranzo, e, non trovandola, si trattennero qualche minuto con il duca. La prima di queste signore, la principessa di Silistra, vestita con semplicità, secca ma di modi gentili, teneva in mano un bastone. Temetti dapprima che fosse ferita o inferma. Al contrario, era molto arzilla. Parlò con tristezza al duca di un primo cugino di lui, non del lato Germant, ma se possibile ancora più brillante, il cui stato di salute, alquanto compromesso da qualche tempo, si era improvvisamente aggravato. Ma era evidente che il duca, pur compiangendo la sorte del cugino e ripetendo «Povero mamma, un così bravo ragazzo», inclinava all'ottimismo. In effetti, il pranzo al quale doveva prendere parte lo attraeva. La grande serata dalla principessa di Germant non lo infastidiva, ma, soprattutto, doveva andare con la moglie all'una del mattino a una grande cena e ballo mascherato, in vista dei quali erano pronti un costume da Luigi XVI per lui e uno da Isabella di Baviera per la duchessa. E il duca non intendeva lasciarsi turbare in questi suoi molteplici divertimenti dalle sofferenze del buon Amanien d'Osmond. Altre due dame con bastone, Madame de Plassac e Madame de Tresme, entrambe figlie del conte di Bréguigny, vennero poi a far visita a Bazaine e dichiararono che le condizioni del cugino Mamà non concedevano più nessuna speranza. Il duca si strinse nelle spalle e, per cambiare discorso, chiese loro se andassero quella sera da Marie Gilbert. Risposero che non ci andavano a causa delle condizioni di Amanien, che era agli estremi. Anzi, si erano scusate anche per il pranzo al quale andava il duca e di cui gli elencarono i commensali: il fratello di re Teodosio, l'infanta Maria Concepcion, eccetera. Poiché il marchese d'Osmond era per loro parente meno prossimo che per Bazaine, la loro defezione parve al duca una sorta di biasimo indiretto per la sua condotta. Diventò improvvisamente scostante. Così, sebbene fossero scese dalle alture di Palazzo Bréguigny per vedere la duchessa, o meglio, per annunciarle il carattere allarmante e incompatibile per i parenti con ogni riunione mondana della malattia del cugino, Valpurge e Dorothée, tali erano i nomi delle due sorelle, non si trattennero a lungo e, munite dei loro bastoni d'alpinista, imboccarono di nuovo l'erta via della loro cima. Non ho mai pensato di chiedere ai Guermantes a che corrispondessero quei bastoni, così frequenti in certo Faubourg Saint-Germain. Forse, considerando l'intera parrocchia come loro dominio e non amando ricorrere ai fiacre, facevano grandi marce, per le quali qualche vecchia frattura, dovuta alla pratica smodata della caccia e alle cadute da cavallo a ciò non di rado connesse, o più semplicemente dei reumatismi provocati dall'umidità della rive gauche e degli antichi castelli, rendevano necessario l'uso del bastone. O forse non erano partite per una spedizione così impegnativa nel quartiere, bensì scese nel loro giardino non distante da quello della duchessa a raccogliere frutta per le loro composte, erano passate, prima di risalire in casa, a lasciare un saluto a Madame de Guermantes, pur senza aggiungere al punto di fare irruzione con un paio di cesoie o un annaffiatoio. Il duca parve commosso che fossi venuto a trovarli il giorno stesso del loro ritorno, ma si scurì in volto quando gli annunciai che era mia intenzione chiedere a sua moglie d'indagare se sua cugina m'avesse realmente invitato. Avevo sfiorato uno di quei favori che i Guermantes non amavano fare. Il duca mi disse che era troppo tardi. Se l'invito non veniva dalla principessa, avrebbe dato l'impressione di sollecitarne uno. Già un'altra volta i cugini gli avevano detto di no e non voleva più, né direttamente né indirettamente, aver l'aria di mischiarsi, di mettere il naso nelle loro liste. Infine, non sapeva nemmeno se lui e la moglie, che pranzavano fuori, non se ne sarebbero poi tornati subito a casa, nel qual caso la scusa migliore per non andare dalla principessa sarebbe stata quella di tenerle nascosto il loro ritorno a Parigi. In caso contrario, certo, si sarebbero invece affrettati a comunicarglielo mandandole due righe o facendole una telefonata a mio favore, ma sicuramente troppo tardi, perché con ogni probabilità le liste della principessa erano ormai chiuse. «Non sarete per caso in urto con lei?» mi chiese in tono sospettoso. I Guermantes temevano sempre di non essere al corrente degli ultimi screzi e che si cercasse di riappacificarsi a loro spese. Alla fine, siccome il duca aveva l'abitudine di addossarsi tutte le decisioni che potevano sembrare poco gentili, «Sentite, ragazzo mio», mi disse di un tratto, come se l'idea gli fosse balenata lì per lì. «Quasi quasi avrei voglia di non dire nemmeno a Orian che mi avete parlato di questa storia. Sapete com'è gentile, per di più vi vuole un gran bene. Si ostinerebbe, nonostante il mio consiglio, a volere avvertire sua cugina. E poi, se dopo pranzo fosse stanca, non ci sarebbero più scuse. Sarebbe costretta ad andarci. No, decisamente non le dirò niente. Del resto, la vedrete voi stesso fra un momento. Non una parola di questo, vi prego. Se deciderete di venire dai miei cugini, non c'è bisogno che vi dica come saremo felici di passare la serata con voi». I motivi umanitari sono troppo sacri perché colui che li sente invocare non si inchini davanti a loro, li creda o non li creda sinceri. Neppure per un attimo volli dare al duca l'impressione di mettere sui due piatti della bilancia il mio invito e la possibile stanchezza di Madame de Guermantes, e promisi che non le avrei parlato dello scopo della mia visita, proprio come se mi fossi lasciato ingannare dalla piccola commedia inscenata dal signor de Guermantes. Gli chiesi se pensava che avrei avuto qualche possibilità di incontrare dalla principessa Madame d'Estermariat. No, no, rispose col tono di chi se ne intende. Conosco quel nome per averlo visto negli annuari dei club. Non è assolutamente gente che vada da Gilbert. Vedrete, là, solo persone fin troppo per bene e terribilmente noiose. Duchesse con certi titoli che si credevano estinti e sono stati rispolverati per la circostanza. Tutti gli ambasciatori, molti Coburgo, altezze straniere, ma neanche l'ombra di Ster Maria, non ci sperate. A Gilbert basterebbe la vostra semplice supposizione per sentirsi male. A proposito, voi che amate la pittura, bisogna che vi mostri uno splendido quadro che ho comprato da mio cugino, in parte scambiandolo con degli Elstir che a noi decisamente non piacevano. Me l'ha venduto per un Philippe de Champagne, ma credo sia qualcosa di ancora più grosso. Sapete cosa penso? Che sia un Velázquez e del periodo migliore, mi disse il duca, fissandomi negli occhi, o per cogliere la mia impressione o per accrescerla. Venne avanti un lacchè. La signora duchessa fa chiedere al signor duca se il signor duca vuole ricevere il signor Swan, perché la signora duchessa non è ancora pronta. Fate entrare il signor Swan, ordinò il duca dopo aver verificato sul suo orologio che gli restava ancora qualche minuto prima di andare a sua volta a cambiarsi d'abito. Naturalmente mia moglie, che gli ha detto di venire, non è pronta. «Inutile parlare davanti a Swan della serata di Marie Gilbert», aggiunse. «Non so nemmeno se è invitato. Gilbert gli vuole molto bene perché è convinto che sia nipote naturale del duca di Berry. È tutta una storia. Se no, figuriamoci, mio cugino che cade in convulsioni se vede un ebreo a 100 metri di distanza. Ma adesso la faccenda si è complicata per via dell'affare dei Rifius». Swan, più di chiunque altro, avrebbe dovuto capire che gli toccava troncare ogni rapporto con quella gente. Ebbene, succede esattamente il contrario. Se ne va in giro a fare discorsi incresciosi. Il duca richiamò il lacchè per sapere se quello che aveva mandato dal cugino d'Osmond era tornato. Il piano del duca, infatti, era il seguente. Poiché supponeva, a ragione, che il cugino fosse ormai moribondo, puntava a far prendere sue notizie prima del decesso, cioè prima di essere costretto al lutto. Dopodiché, coperto dalla certezza ufficiale che Amanien era ancora vivo, sarebbe corso al suo pranzo, alla serata del principe e infine al ballo, dove avrebbe indossato il suo costume da Luigi XVI e dove aveva il più piccante degli appuntamenti con una nuova amante, evitando di far prendere altre notizie sino all'indomani, esauriti tutti i piaceri. A quel punto, se il cugino fosse frattanto deceduto, sarebbe iniziato il lutto. «No, signor duca, non è ancora tornato. Per mille diavoli, si fa sempre tutto all'ultimo minuto qui!» esclamò il duca al pensiero che Amanien avesse avuto il tempo di tirare le cuoia per un giornale della sera, facendogli perdere il ballo. Ordinò che gli portassero le tampe, dove peraltro non c'era nulla. Non vedevo Swan da diverso tempo. Per un istante mi chiesi se, una volta, non avesse i baffi o non portasse i capelli a spazzola, perché gli trovai qualcosa di mutato. Era, semplicemente, molto mutato lui stesso, perché era molto malato, e la malattia produce nei volti mutamenti profondi, non meno che lasciarsi crescere la barba o spostare la riga nei capelli. La malattia di Swan era la stessa di cui era morta sua madre, la quale ne era stata colpita esattamente alla stessa età che egli aveva adesso. A causa dell'ereditarietà, le nostre esistenze sono, in effetti, piene di cifre cabalistiche, di dati già tratti, proprio come se ci fossero veramente le streghe. E come c'è una certa durata della vita per l'umanità in generale, ce n'è una in particolare per le famiglie, o meglio, nelle famiglie, per i loro membri che s'assomigliano. Swan vestiva con un'eleganza che, non diversamente da quella di sua moglie, associava ciò che era a ciò che era stato. Stretto in una redingote grigio perla, che metteva in risalto la sua figura slanciata, portava guanti bianchi a righe nere e una tuba grigia d'una forma svasata che De Lion, ormai, faceva solo per lui, per il principe di Sagan, per il signor di Charlieu, per il marchese di Modène, per Charles Haas e per il conte Louis de Turenne. Mi sorpresero l'incantevole sorriso e l'affettuosa stretta di mano con cui rispose al mio saluto, perché credevo che, dopo tanto tempo, non m'avrebbe riconosciuto subito. Gli confessai il mio stupore. L'accolse con una risata, un accenno d'indignazione e una nuova pressione della mano, come se sospettare che potesse non riconoscermi equivalesse a mettere in dubbio l'integrità del suo cervello o la sincerità del suo affetto. E, tuttavia, fu proprio quello che accadde. Mi identificò, questo l'ho saputo molto più tardi, solo qualche minuto dopo, sentendo citare il mio nome. Ma nessuna alterazione del suo viso, del suo eloquio, delle cose che mi disse, tradirono tale scoperta, fatta grazie a una frase del signor di Guermantes. Tanta era la sicurezza con cui egli padroneggiava il gioco della vita mondana. Vi metteva, del resto, la spontaneità di modi e le iniziative personali, anche in materia di abbigliamento, che caratterizzavano il genere de Guermantes. Così, il saluto rivoltomi, senza riconoscermi, dal vecchio clubman, non era il saluto freddo e rigido dell'uomo di mondo puramente formalista, ma un saluto colmo di una gentilezza reale, di un'autentica grazia, simile, per esempio, a quello della duchessa di Guermantes, che arrivava persino, incontrandovi, a sorridervi prima del vostro saluto, in contrapposizione con i più meccanici saluti tipici delle dame del Faubourg Saint-Germain. E così, ancora, il cappello che Swann, secondo un'abitudine in via di estinzione, posò per terra accanto a sé, era foderato di cuoio verde, sottigliezza non abituale, ma alla quale egli rimaneva fedele perché, diceva, risultava molto meno sporchevole. In realtà, e questo non lo diceva, perché era molto bello a vedersi.